Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Dico subito che ci occuperemo della vicenda dell'ex numero uno di Fastweb, Silvio Scaglia, attualmente ricercato, per una vicenda che riguarda chiaramente un reato anche finanziario come è il riciclaggio, ma non solo, la figura anche di Scaglia come uomo che creò Fastweb e che obiettivamente rappresentò uno dei personaggi in un'epoca che è passata sotto il termine della new economy, quindi parliamo degli anni 2000, 2001, 2002, e tutta la vicenda la ricorderemo anche in apertura. Dopodiché partiremo con un'analisi, come chiesto anche da molti ascoltatori, di cosa si sta muovendo nel mondo delle industrie italiane, le piccole e medie. Non possiamo sempre parlare dei grandi gruppi, certo che vi saranno anche aggiornamenti su Fiat oggi e su Telecom, però delle piccole imprese italiane, quindi il 98% delle imprese italiane ha meno di 50 dipendenti. E useremo due aree a nostro avviso simbolo, cioè da un lato Vicenza e dall'altra Bari, la dorsale adriatica, nord e sud, per capire se vi sono differenze oppure se i problemi siano analoghi. Lo dico perché nell'ultima settimana sono usciti tutti i dati consuntivi del 2009 e quindi andamento della produzione industriale, dell'export, ieri ne abbiamo parlato a lungo, del fatturato, ed è emerso chiaramente, è inutile girarci attorno, che la quota italiana nella produzione industriale mondiale si è ridotta, perché la produzione industriale è tornata ai livelli del 2008, noi no, e che il nostro export, là dove ha ripreso a marciare, il dato di ieri segnava un più dopo 12 mesi di cali consecutivi, ebbene là dove ha ripreso a marciare è tutta l'area dei paesi delle economie cosiddette emergenti, Cina, India, Brasile, e area sudamericana in primo luogo, e qualcosa anche in Russia. Questo pone un problema di sfide, di modelli per un sistema di impresa come il nostro, che era abituato ad esportare il 50% in Europa e comunque in mercati abbastanza vicini. E lì le dimensioni sono un problema. Dopodiché parleremo della borsa. Giornata pesante oggi in borsa, meno 2,2% a Milano, che è la peggiore, meno 1,6% comunque a Francoforte, meno 1,3% a Parigi, meno 0,80% a Londra, che è quella che si muove meglio. L'America perde lo 0,80%, l'euro è leggermente sotto pressione di nuovo a 1,3561, smentito il piano di aiuti da parte tedesca soprattutto, ma anche per quello che riguardava le indiscrezioni, è arrivata una doppia smentita da Bruxelles e da Berlino. Il quotidiano Der Spiegel nel weekend aveva svelato l'esistenza di un piano da 20-25 miliardi per aiutare la Grecia, appunto smentito il piano, anche se queste indiscrezioni erano servite a rafforzare l'euro o perlomeno a riportarlo sopra quota 1,36. Molti fanno notare che l'Europa si sta muovendo in maniera un po' lenta. Ieri le parole di George Soros, quello che cacciò la lira e la sterlina dallo SME nel 92, guadagnandoci, vado a memoria, un miliardo, una cifra folle, un miliardo di euro allora, e chi ha detto se la Grecia restasse nell'euro rappresenterebbe un problema per la stabilità e l'esistenza dell'euro stesso. Tra l'altro sempre sotto i riflettori i cosiddetti PIGS con due I, Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna, e perché il 20% del credito delle banche tedesche sarebbe infatti dato, sarebbe relativo a questi cinque paesi. Per la precisione, in Germania la maggior parte del credito dell'esposizione creditizia delle banche sarebbe nei confronti di Spagna e Irlanda, terza arriverebbe l'Italia. E allora il mutamento di pelle delle nostre piccole e medie imprese, la borsa e le tensioni sull'euro, e poi la vicenda Fastweb e l'accusa gravissima di riciclaggio, addirittura con la malavita in mezzo, con anche aggiornamenti su Fiat, da cui partiamo con le nostre notizie in breve. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, per quello che riguarda le altre notizie, volete sapere dei titoli, ne parleremo ampiamente. Comunque il peggiore in questo momento è Unicredit, meno 3,6%, poi, anzi ho detto, no, Fiat è il peggiore, meno 3,8%, poi Unicredit, poi Estima Electronics meno 3,5%, Tenaris meno 3,40%, Banco Popolare meno 3,20%, come Intesa, Popolare Milano meno 3%, Autogrill meno 3%, Exor meno 2,90%, Telecom meno 2,80%, Mondadori meno 2,6%, come Unipol, Saipem meno 2,4% come il Monte dei Paschi. Pesanti oggi le banche, meno 2,3% UBI, Pirelli meno 2,2% come Generali, Italcementi meno 2,1%, Impregilo meno 2%. Bene, l'unico titolo che va bene è A2A più 1,3%. Petrolio in calo ma sempre vicino a $80 al barile, $79,20 al barile, e non è una vicenda in cui torniamo a parlare dei bonus dei manager, mentre il mondo annaspa, soprattutto il mondo occidentale annaspa con i colpi di coda, speriamo di coda, di questa crisi. A New York, pensate, i banchieri di Wall Street nel 2009 tutti si sono dati premi in aumento del 17% rispetto al 2008. Incredibile. Il bonus medio nell'industria dei servizi finanziari nel 2009 è stato pari a $123,000, nell'anno in cui praticamente le banche si stavano, l'industria finanziaria si stava ristrutturando grazie a un intervento statale americano da migliaia di dollari a questo punto. In calo la fiducia dei consumatori in America, non è una bella notizia, cala 46 punti, peggio di ogni previsione. Io qua sto per far partire il gufo fra un po', perché dobbiamo andare avanti con un insieme di notizie, dicevo, 46 punti contro i 55,9 punti di gennaio, ancora in calo la fiducia dei consumatori a febbraio, forte flessione in Italia questa volta di quasi 4 punti, torna sui livelli dello scorso luglio. Vabbè, non parliamone più, gufo sia. Eccolo lì, colpo di coda del gufo sicuramente. Fiat a Mirafiori, cerchiamo un attimo di alleggerire la giornata, ragazzi, perché se no oggi è dura arrivare alle 18.30. Fiat a Mirafiori, la cassa integrazione riguarda anche gli impiegati, i cosiddetti colletti bianchi. 2 settimane di stop per 1.200 colletti bianchi, oltre ai 30.000 lavoratori già annunciata, praticamente dipendenti di enti centrali di Mirafiori, dell'auto, della powertrain e degli acquisti. Dal 22 al 28 marzo, dal 6 all'11 aprile, lunedì 5 è Pasquetta, saranno messi in cassa integrazione. La prima settimana andranno in cassa integrazione 1.200 lavoratori dell'auto, nella seconda settimana saliranno 2.400, quasi il 50% del totale degli interessati. Il provvedimento riguarda anche 400 dipendenti della powertrain di Mirafiori e Torino Stura, che salgono a 800 nella settimana di aprile, e gli acquisti, 100 lavoratori la prima settimana, 400 la seconda. Questo io ricordo alcune critiche quando parlammo del problema dei colletti bianchi, dei quadri, dei manager, insomma si diceva questi sono ricchi, come vedete purtroppo la crisi funziona come una livella quasi per tutti, non per i banchieri d'affari e il mondo della finanza americana. Allora, la vicenda di cui parleremo, condotta dalla Guardia di Finanza, l'operazione Punchard Broker e dai carabinieri del ROS, ha portato all'emissione di 56 ordinanze di custodia cautelare. L'accusa è associazione per delinquere, finalizzata al riciclaggio e al riempiego dei capitali illecitamente acquisiti attraverso un sistema di frodi fiscali, falsa fatturazione di servizi telefonici e telematici inesistenti. 2 le società coinvolte, Fastweb, Betelecom Italia, Sparkle. E ancora, poi la spiegheremo l'operazione, una gigantesca rete di riciclaggio sporco con ramificazioni internazionali, questa è l'accusa, per un ammontare complessivo di circa 2 miliardi e 400 milioni di euro di IVA evasa. L'IVA evasa veniva incassata su conti esteri, poi i soldi venivano reinvestiti in appartamenti, gioielli e automobili. Ricercato da questa mattina Silvio Scaglia, ex amministratore delegato di Fastweb. Poi all'ora di pranzo ha detto di trovarsi all'estero, ha dato mandato ai suoi difensori di concordare il suo interrogatorio nei tempi più brevi. Indagato, l'ho saputo poco fa, anche l'amministratore delegato di Fastweb Stefano Parisi, il direttore finanziario Calcagno, il membro del consiglio di amministrazione Rossetti, e poi ordinanze di arresto per il senatore Di Girolamo del Popolo delle Libertà per violazione della legge elettorale con l'aggravante mafiosa. Infatti il procuratore della DDA di Roma, Giancarlo Capaldo, che ha messo l'ordinanza. Ne parleremo alle 18. Parliamo adesso della nostra industria, di come sta affrontando una mutazione, per alcuni versi, genetica. Allora, come detto, primo tema, le nostre imprese, il rapporto con le banche alla luce di un insieme di dati che abbiamo avuto nelle ultime settimane: export, produzione industriale e ordinativi. Il 2009 ormai è storia, si è chiuso con cali che ricordiamo, meno 20% nell'export, meno 17% nella produzione industriale, insomma. Sono dati pesanti, abbiamo commentato anche ieri con il vice ministro Russo l'export a gennaio, che ha avuto un calo rispetto a dicembre, ma ha avuto una crescita rispetto a un anno prima, una crescita intorno, ed è la prima volta che si ha un segno positivo da 12 mesi a questa parte. Difficoltà comunque restano sulla produzione industriale, e invece qualcosa sembrerebbe muoversi sul fronte del rapporto banche e imprese dopo un anno difficilissimo. Allora, volutamente ne parliamo con due presidenti delle associazioni degli industriali sul territorio. Abbiamo scelto la cosiddetta asse adriatica, e quindi da Vicenza, città simbolo del nord-est anche per la quota dell'export, a Bari, città simbolo della parte pugliese più adriatica del sud, e anch'essa città ampiamente vocata all'export e allo sguardo verso il Mediterraneo. Ringrazio allora l'ingegnere Roberto Zuccato, presidente dell'Industriale di Vicenza. Buonasera Zuccato. Buonasera, buonasera a tutti. E grazie anche Alessandro Laterza, presidente dell'Industriale di Bari. Buonasera anche lei, Laterza. Buonasera. Allora, i numeri e poi le domande. Per Vicenza stiamo parlando di oltre 2.100 imprese associate, per un totale di 103.000 dipendenti, 24 miliardi di euro di fatturato complessivo, e di cui il 35% se ne va all'estero, però poi vedremo i dati, il 90% di queste imprese ha meno di 100 dipendenti. Per Bari stiamo parlando di 800 imprese associate, anche qui oltre 30.000 dipendenti, e anche qui una grossa vocazione verso i mercati del Mediterraneo, fermo restando che sia per Vicenza che per Bari, come per tutto il resto del paese, tuttora metà del nostro export se ne va dentro l'Europa. Allora, ingegner Zuccato, alla luce di quello che abbiamo visto anche ieri con i dati sulle esportazioni, qua ormai è confermato che gli unici paesi dove l'export italiano tira sono Cina, America del Sud, India, insomma, e qualcosa si vede sulla Russia, ancora segno meno in tutta la parte dell'area europea. Questo che cosa vuol dire come modello produttivo delle imprese vicentine e del nord-est, che sappiamo essere brave, dinamiche, ma piccole, delle volte tremendamente piccole e sottocapitalizzate? Ma guardi dottore, qui si continua a parlare di crisi, io credo che dovrebbe essere chiamata con un termine diverso. Io sto pensando che le nostre aziende si stiano trovando di fronte a una vera e propria mutazione genetica. Il crollo del fatturato della produzione industriale che c'è stata dall'inizio della crisi è molto preoccupante, e in considerazione del fatto che la produzione industriale mondiale è più o meno tornata ai livelli pre-crisi, significa che se noi siamo ancora a meno 20, la nostra produzione si è spostata da questa parte del mondo in altre parti del mondo. La cosa è abbastanza preoccupante perché, non so se ha avuto modo, il Sole 24 Ore l'aveva riportato sotto Natale, c'era stato una occasional panel della Banca d'Italia che metteva in evidenza come dall'inizio del 2008, quando è cominciato questo periodo, a oggi la produzione industriale italiana ha perso 100 trimestralità, che significa, diviso 4, 25 anni, siamo tornati ai livelli di produzione che avevamo nel 1984. 85. Questo confrontato con paesi come la Francia o la Germania che hanno perso rispettivamente 12 o 13 trimestralità, stiamo parlando di 100, quindi è chiaro che la situazione è veramente molto molto difficile. Se poi riprendiamo il discorso che ho detto prima, che ci troviamo di fronte a una produzione mondiale che è tornata più o meno ai livelli di prima, significa che oggi dobbiamo convincerci che dobbiamo ripartire da queste posizioni. Non ci sarà a breve un ritorno ai fatturati, alle produzioni industriali del 2008 e quindi va un po' ripensato in generale anche le nostre aziende, e per questo che l'ho chiamata mutazione genetica. Dobbiamo ripensare al nostro futuro, come affrontarlo e con che strumenti. Lei parla di mutazione genetica, Zuccato, in una terra che ricordo insomma è arrivata ad avere un PIL pro capite, a sviluppare un PIL pari a tutta l'Argentina, però citava anche il dato della torta. Lo chiarisco anche a chi scrive al 349-238-6666. Se la torta della produzione mondiale è rimasta più o meno invariata, perlomeno si è un po' ristretta, ma adesso è tornata sui livelli del 2007-2008, mentre noi siamo ancora sotto di un 25% 2009 su 2008, vuol dire che la nostra fetta di questa torta si è ristretta. Non si è ristretta la torta e in proporzione la fetta è rimasta uguale. Lo dico in maniera un po' così prosaica, ma spero chiara. Ancora, ricordo che fino al 2008 però noi eravamo riusciti a riconquistare la quota di Made in Italy nel mondo, cioè eravamo scesi al 2,8% su 100, su 100 beni mondiali, e eravamo arrivati al 2,8% erano Made in Italy, eravamo tornati a un 3,5%, e questo percorso purtroppo si è interrotto a fine 2007. Se ho ben capito il suo ragionamento, ci dice: attenzione, qui qualcun altro ha preso il nostro posto perché la torta è rimasta uguale. E questo mi sembra abbastanza chiaro. Il dato che lei citava sui 100 trimestri persi nella produzione industriale contro i 12-13 trimestri francesi o tedeschi vuol dire che noi siamo tornati ai livelli del 1985, mentre Francia e Germania sono tornati indietro di un anno e mezzo al massimo, e questo è pesantissimo. Le proposte, Presidente Zuccato, perché lei rappresenta 2.100 imprese, di cui la stragrande maggioranza hanno non meno di 100, delle volte meno di 50 dipendenti, sono state brave a esportare nei mercati dell'est, in Europa continentale, ma anche nell'Europa dell'est. Se tutta la ripresa che si vede arriva dall'Asia, intesa anche come India e Cina, e dal Brasile, qui il problema si chiama purtroppo di nuovo dimensioni e reti lunghe. Assolutamente, ma e ormai mi sembra sia abbastanza chiaro il fatto che un'Europa vecchia con prospettive di crescita demografica anche molto limitate nei prossimi anni potrà essere difficilmente il paese dove si possa ritrovare il fatturato perso, l'area dove si possa ritrovare il fatturato perso. Quindi è inevitabile che ci dobbiamo rivolgere verso mercati più lontani, e questo per le nostre aziende che, come ricordava lei, sono di dimensioni spesso limitate, diventa il vero problema, perché per affrontare mercati lontani ovviamente oltre che a risorse finanziarie servono risorse umane, e questo per le piccole aziende è veramente un problema. Per cui ci stiamo orientando, ma lo stiamo già facendo da tempo, ma in questi ultimi mesi in maniera significativa, nel creare anche una cultura dell'aggregazione tra i nostri imprenditori. Il nostro è un tessuto imprenditoriale molto distribuito, nato nel dopoguerra, magari partendo dal sottoscala, lavorando intensamente con la capacità di saper fare qualcosa, farlo bene, ma la capacità nel saper fare qualcosa. Oggi il saper fare qualcosa non basta più, oggi ci vogliono competenze, ci vuole una capacità di distribuzione, ci vogliono i brand. Ecco, noi qui soffriamo particolarmente a Vicenza perché purtroppo non abbiamo moltissimi brand, ne abbiamo alcuni di grande prestigio. Marchi importanti, marchi che si impongono. Sì, marchi che permettono di avere una certa penetrazione, di essere soprattutto presenti sui mercati con la propria distribuzione. Noi abbiamo un terzismo diffuso di altissimo livello perché produciamo componentistica per tutti i settori, però rimane componentistica, e quindi produco delle raccorderie pneumatiche per macchine in movimento terra, se il mercato delle macchine in movimento terra si ferma non so dove andare a cercare un nuovo cliente. E quindi dobbiamo cercare di creare delle reti allungate o creare delle aggregazioni tra imprese per far sì che si sia in grado di fornire un qualcosa di più che vada oltre il semplice componente, ma un servizio maggiore, una possibilità di offrire un pacchetto migliore, perché capisco che trasformare immediatamente in breve tempo le aziende da terzisti a aziende di brand non è semplice, quindi la via è quella di cercare di convincere i nostri imprenditori a superare anche la sindrome del 51%, che a volte è anche sindrome del 20%, cioè di non riuscire, di avere la cultura di far entrare in azienda capitali, quindi anche partenariati di altre aziende, condividere. Ci sono varie forme, perché dipende anche proprio dalla cultura, dalla mentalità che ha il singolo imprenditore, certo. Però qualcosa bisogna trovare. Allora, dopo vorrei arrivare, cioè l'analisi dei problemi è chiara, l'essere terzisti, cioè lavorare per conto terzi, con un'altissima qualità, significa però da un lato subire più che dominare i processi, ma dall'altro anche, aggiungo io, che se improvvisamente, come abbiamo visto, i tedeschi si mettono a comprare macchinari utensili, cioè macchinari per fare altri macchinari, meccanica di precisione, quello che volete voi, dalla Cina, noi lì non è che puoi andare a contrattare più di tanto, occorre che tu vada a vendere nei mercati che adesso hanno bisogno, ed è lì le esigenze di reti lunghe. Poi vorrei sapere, Presidente Zuccato, che cosa state facendo però per dare una mano alle imprese associate, e poi sentiremo anche Marcegaglia sul cosa deve fare la politica. Però Presidente La Terza, vorrei capire se i problemi che lei vede nell'area barese, lei chiaramente l'area barese significa anche l'area pugliese, come Vicenza rappresenta in parte anche il resto del Veneto, sono simili, se anche voi assistete a una perdita di quota di mercato che difficilmente riavrete, e se anche lì il problema dei marchi deboli e del terzismo, che però appunto è più subito che dominato. Ma io concordo pienamente con l'analisi del collega Zuccato, i problemi sono molto simili, di fatto gli stessi, con una particolarità, e cioè che soprattutto nell'area di Bari, per esempio, ci sono grossi investimenti esterni e quindi impianti che appartengono a gruppi multinazionali, soprattutto nel campo della componentistica auto, che noi dobbiamo cercare comunque di difendere. E anche qui è interessante notare come il tema fondamentale sia essenzialmente quello di lavorare sull'offerta di ricerca e di risorse umane qualificate, perché se la mettiamo sul piano, come dire, dei costi o degli incentivi nudi e crudi, e questi risultano decisamente insufficienti nel confronto con altri paesi. Poi c'è il problema della piccola impresa, e qui la mia analisi è convergente con quella di Zuccato. Io ci metto una punta di pessimismo in più e una punta di ottimismo in più. La punta di pessimismo è che vedo molto faticoso questo cambiamento di paradigma, in fondo lo stesso concetto di Zuccato, per cui sempre di più ci si deve rivolgere ad altri mercati. Il mercato europeo e il mercato interno non costituiscono più due prospettive sufficienti e con dei tassi di ripresa per noi tali da risolvere la situazione attuale, che vede, per essere chiari, un calo di export nel 2009 nell'ordine del 27-30% in media, quindi, come dire, numeri molto molto duri. Dobbiamo imparare a dialogare sicuramente con l'area sudamericana, l'India e la Cina, e poi, per quanto riguarda specificamente la Puglia e Bari, di più con l'area balcanica, la Russia, e osservare con un po' più di attenzione l'area nordafricana, e questo non è un cambiamento semplice, perché significa aprire una rete di relazioni e darsi un'organizzazione molto diversa rispetto a quelli del passato, e questa è la punta pessimistica. La punta ottimistica è legata al fatto che io sono convinto che essendoci decenni di ripresa, in qualche maniera ci sia una sorta di battuta di ritardo che dobbiamo essere però in grado di sfruttare intelligentemente per quanto riguarda le nostre imprese, perché nel campo appunto delle macchine utensili, per esempio, sono convinto che i giochi non siano già chiusi oggi, c'è forse un piccolo spazio di tempo in cui possiamo recuperare, e lo stesso penso per alcuni settori del Made in Italy, certo di fascia medio-alta, quindi parliamo di produzioni qualificate dotate di marchio, credo che lì ci siano degli spazi da riprendere. Dopodiché per il quadro analitico non è che quello che si è bene o male descritto, cioè di difficoltà e di necessità di trovare delle soluzioni. La mia risposta sulle soluzioni è esattamente la stessa. Reti, noi possiamo semplicemente, dobbiamo reinventare la nostra capacità di flessibilità in termini produttivi dal punto di vista quantitativo e qualitativo e puntare sulla nostra creatività, che non significa lavorare solo nel campo del Made in Italy convenzionalmente inteso, ma significa anche nei settori, come dire, della meccanica piuttosto che dell'informatica, dove sono più ottimista di quanto non si sia normalmente, per esempio sviluppare una capacità di offerta in cui la nostra creatività di impresa e delle nostre capacità di in qualche maniera di offerte di invenzione possano in qualche maniera riallinearci nella competitività con paesi che hanno costi infinitamente inferiori e quindi rispetto ai quali, come dire, siamo non potete competere su esatto. Allora, siccome lo dico anche chi scrive di nuovo al 3492386666, le soluzioni chiedono gli ascoltatori, immagino in alcuni casi anche imprenditori, visto che tra la Terza e Zuccato stiamo parlando in tutto di quasi 3.000 aziende associate e 130.000 dipendenti, per cui saranno due realtà locali ma ben rappresentative. Le soluzioni, lo dico perché si chiede alla politica, adesso sentiamo la Presidente Marcegaglia, l'ha chiesto oggi, di fare riforme, di rendere più competitivo il sistema, e questo va benissimo, è compito della politica, dovere quasi direi della politica. Però vorrei sapere da voi due, che siete gli uomini operativi, presidenti sul territorio, che cosa state facendo anche come associazione, come Confindustria, per spiegare agli associati che devono associarsi, che devono perdere un po' di potere se non reggono come dimensione, cioè l'iniziativa, come vengono spinti. Prima Emma Marcegaglia, oggi durante l'inaugurazione dell'anno accademico della Lewis School of Government, sulla politica che deve cambiare passo. Noi dobbiamo fare la nostra parte, ma chiediamo alla politica, alle istituzioni di fare la propria. Io credo che sia veramente venuto il momento, magari dopo le elezioni, perché è ovvio che durante le elezioni regionali di tutto si parla, tranne che di futuro e delle grandi scelte che deve fare il Paese. Noi auspichiamo davvero che dopo le regionali le forze politiche di maggioranza e di opposizione si mettano insieme e trovino veramente la forza, il coraggio di fare le grandi riforme della pubblica amministrazione, della capacità decisionale molto limitata che ha il nostro Parlamento, il nostro governo, ma che veramente si vada nella direzione di fare le grandi riforme da sempre abbandonate, magari iniziate poi accantonate, perché il tempo ormai non può più aspettare. Abbiamo davanti grandi sfide, le possiamo cogliere, le possiamo vincere. Il nostro Paese non si deve rassegnare a una situazione di declino che noi non vogliamo e pensiamo che il Paese abbia tutta la forza di reagire, ma è venuto veramente il momento di decidere, di fare delle scelte, di prendere le proprie responsabilità, di non rimanere fermi in una sorta di immobilismo che accontenta tutti. Noi chiediamo veramente, saremo i primi a fare la nostra parte come imprenditori, ma chiediamo veramente che la politica trovi la forza, la determinazione di abbandonare i conflitti, di unirsi per il bene del Paese e nel fare le grandi riforme che veramente questo Paese ha, di cui questo Paese ha bisogno da molto tempo e del quale ormai non possiamo più fare a meno. Così appunto oggi la Presidente Confindustria Marcegaglia, grandi riforme, le pensioni ma non solo, tutto un insieme di riforme di cui poi parleremo anche nella seconda ora del programma. Dopo il metodo e la pubblicità vorrei, visto che la stessa Marcegaglia diceva noi siamo pronti a fare la nostra parte, vorrei le risposte concrete da parte del Presidente dell'Industria di Vicenza Zuccato e degli Industriali di Bari La Terza, che cosa fare. Poi l'ultima domanda sul rapporto banca-impresa che da quello che vediamo sembra un po' migliorare. 349-238-6666 per i vostri sms. di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Parleremo anche della borsa, della vicenda degli avvisi di garanzia, delle richieste anche di arresto, Fastweb, ma non solo. 349-238-6666 per i vostri sms. Vedo molti che scrivono da Vicenza ma anche da Bari e comunque dal Veneto, dalla Puglia e da altre regioni italiane, dicendo che per esempio il calo dell'elettricità è stato del 30%, le fabbriche usano meno elettricità, stanno ritornando i problemi dopo che c'è stato un esaurimento delle scorte, di nuovo alcuni temono una difficoltà. Andiamo cauti, continuiamo invece a chiedere le soluzioni, come detto avete sentito la Presidente di Confindustria alla Marcegaglia, chiedere alla politica le riforme, vediamo cosa possono fare gli imprenditori. Sulla borsa, vi arriviamo tra pochi minuti, il calo finale del 2,21%, su Milano, male anche Parigi, Francoforte, male le banche oggi dopo Commerzbank che ha chiuso in rosso e in generale la fiducia dei consumatori americani che a sorpresa è risultata pesantemente in calo. Comunque, dicevamo di cosa possono fare gli imprenditori, il presidente industriale di Vicenza, Zuccato, che cosa concretamente fate per spingere gli imprenditori a unirsi, a fondersi, a far entrare altri capitali, a non avere la sindrome del 51%? Stiamo cercando di far capire quanto sia importante in questo momento sollevare la testa. Qui c'è il classico detto testa bassa e pedalare ed è stato un po' quello che ha ispirato i nostri imprenditori dal dopoguerra ad oggi. Oggi noi stiamo spingendo fortemente come associazione verso una cultura dell'aggregazione, perché abbiamo capito che dobbiamo prima di tutto creare nei nostri associati questo tipo di cultura, cioè riuscire a capire che non è importante a tutti i costi avere il 100% di un'azienda che magari ha grosse difficoltà e è destinata anche a soffrire o a morire nei casi peggiori, ma è sempre meglio avere una percentuale più bassa in un'azienda che ha un futuro davanti. Su questo lavoro ci siamo impegnati fortemente, stiamo cercando di portare degli esempi concreti, virtuosi, magari importandoli anche da altri territori per far capire quanto questo abbia contribuito a mantenere le aziende sane e proiettate sui mercati internazionali. E poi stiamo cercando di coinvolgere anche la Merchant Bank, anche quelle del territorio, delle banche del territorio, proprio perché fungono da collante in questo, magari entrando con, anche con piccole percentuali, perché c'è sempre da vincere quella famosa sindrome del 51%, piccole percentuali nelle varie aziende, e per poi cercare di aggregarle tra loro e creare questa rete di cui si parlava prima. Zuccato, in una battuta, qualcosa si muove oppure siamo proprio agli albori? Si muove, sono anche fiducioso perché sto vedendo che di fronte a una situazione difficile come questa, ancora una volta i nostri imprenditori sanno reagire, stanno capendo l'importanza di questo cambiamento e quindi li vedo propositivi e li vedo anche impegnati. Certo non è un percorso semplice neanche breve, ma l'importante è iniziarlo e credo che ci sarà un effetto domino positivo. Sì, non è breve perché questa volta è un percorso anche culturale, quasi per usare un parolone antropologico nel modello di impresa, non è solo un problema diciamo di nuovi mercati, di spostare l'export o gli agenti da un paese all'altro, va cambiata proprio come diceva lei, la pelle, la metamorfosi dell'impresa. La terza, anche voi, cosa state facendo per gli industriali baresi, comunque dell'area pugliese, e se vede qualche segnale oppure siamo agli inizi? Noi abbiamo già qualche segnale perché stiamo spingendo, per la verità, sin da prima del 2009 sull'utilizzo di alcuni strumenti di aggregazione di impresa che sono indicati nella programmazione regionale pugliese. Quindi abbiamo fatto in qualche maniera utilizzo di questa opportunità e spinto le aziende a ragionare sulla organizzazione di servizi comuni in qualche maniera che non prevedono incentivi alla singola azienda ma lo sviluppo di attività dell'interesse di una pluralità di aziende. Questo è un discorso che vale su scala regionale, quindi non solo per quanto riguarda la provincia di Bari o la provincia di Barletta di Atrani. E quindi qua qualche numero già lo vediamo, insomma, qualche attività è già in partenza. Poi abbiamo accolto e vogliamo in qualche maniera sviluppare il discorso lanciato dal vicepresidente Bonomi, responsabile delle politiche territoriali, lavorare sulle reti di impresa non come espressione, come dire, generica, ma come forma di organizzazione riconosciuta delle imprese e delle aziende, e quindi spingere in questa direzione per collaborazioni che hanno carattere più operativo tra singole aziende, sostanzialmente organizzare e dare forma alle filiere. Su questo io sono abbastanza fiducioso perché, come dice anche Zuccato, siamo abbastanza bravi in Italia e certamente a Bari a fare di necessità virtù e quindi, come dire, sotto il problema trovare una soluzione per rispondere a queste difficoltà di scenario. Allora, informazioni sul traffico, poi l'ultima battuta sul rapporto banca-imprese, anche perché obiettivamente per dare una buona notizia noi cerchiamo sempre di darla. qualcosa si sta muovendo, oggi le dichiarazioni anche del numero 2 di Unicredito, Nicastro, le faremo sentire, e poi la borsa, invece le difficoltà del mondo bancario, questa fiducia dei consumatori americani e anche italiani che torna indietro, torna a luglio per quello che riguarda l'Italia. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, presidente Zuccato, quindi industriale di Vicenza da un lato e poi la terza industriale di Bari dall'altro, il rapporto banche-imprese. Oggi su Sole 24 Ore, nelle pagine economia, viene segnalata dalla Banca d'Italia una progressiva attenuazione delle restrizioni, insomma le banche starebbero un po' allargando quei cordoni della borsa sia sugli spread, le differenze dei tassi e sia anche sulle garanzie richieste per ottenere un prestito. Su questo oggi è intervenuto il numero 2 del gruppo Unicredito, mi riferisco a Roberto Nicastro, vice amministratore delegato, al microfono del nostro Emilio Buttaro. Tipicamente si dice che il credito bancario si dà sui bilanci, poi si è rilevato una contrazione del credito bancario a fine 2008, primi 2009. Allora, le due cose non sono in qualche modo compatibili una con l'altra, no? Perché a fine 2008 i bilanci erano ancora quelli del 2007 che erano bilanci buoni, no? Questo vuol dire in realtà che il credito in Italia non si dà granché sui bilanci ed è anche, voglio dire, intuitivamente logico che sia così, perché i bilanci, lo sappiamo, in un caso su due sono poco rappresentativi delle realtà aziendali. Cosa vuol dire questo? Leggiamolo in positivo. Vuol dire che il fatto che i bilanci a fine 2009 saranno molto peggiori di quelli del 2008-2007 non vuol dire che diminuirà il credito. So come dire, il problema, tra virgolette, diciamo, del credito in buona parte l'abbiamo già visto. Oggi il credito aumenterà o diminuirà mano a mano che si diffonderà un senso positivo di fiducia sul futuro, che porterà sostanzialmente le imprese a generare maggiori progetti di investimento, ad avere da parte di tutti una maggior fiducia sul fatto che i fatturati possano riprendere ad avere un segno positivo piuttosto che negativo. Oggi veramente il tema complessivo è di fiducia sulla congiuntura dei prossimi 2-3 anni piuttosto che di bilanci passati. Allora, così anche il vicepresidente di Unicredito, che dice insomma stiamo notando un leggero allentamento. C'è stato sicuramente una contrazione a fine 2008, però insomma non ci sarà ormai il rischio, credit crunch è scongiurato. E in una battuta, perché giustamente gli ascoltatori vogliono anche la borsa, un attimo di pazienza, chi scrive al 349-238-6666, presidente Zuccato, stanno mollando un po' le banche quanto a garanzie spread, sì o no? La verità. Se riferiamo alle banche del territorio, hanno mollato anche nello scorso anno, perché abbiamo avuto, ci sono stati aumenti di affidamento del 9-10%, purtroppo sono andati a coprire invece riduzioni di affidamenti operati dalle grandi banche nazionali, quindi ben venga se c'è una dichiarazione di intento da parte anche di una delle banche nazionali, perché ci sia una maggiore attenzione all'imprenditoria. E qui il problema è che sono venuti a mancare le antenne sul territorio da parte di queste grandi banche. L'abbiamo detto più volte, sì. L'abbiamo detto più volte. Loro non erano più in grado di valutare l'impresa per l'imprenditore, per la capacità che ha di sviluppare, ma solo in base ai numeri, e questo per noi diventa un dramma, specie in un momento come questo. Eh sì, anche perché se tu vai a vedere i bilanci, è chiaro che non dai soldi a nessuno in questo periodo, però se tu conosci la storia delle imprese e la storia degli imprenditori, anche la biografia dalle volte, riesce a valutare meglio se uno è serio o non serio, se sta per fallire o ha solo una difficoltà. Significa presenza degli uomini sul territorio. Le banche piccole, più legate al territorio, li hanno mantenuti, non si offendono i grandi gruppi bancari. Le altre banche, soprattutto quelle che pensavano alla banca universale, si sono ritrovate poi ad avere persone che poco conoscevano questi territori così articolati, con piccole imprese diverse tra di loro, anche se i capannoni sono a distanza di qualche centinaio di metri. Alessandro la Terza, Zuccato ha detto in sostanza le piccole avevano già mollato, le grandi aspettiamo, apprezziamo l'intento, ma aspettiamo, la metto giù così. Qui c'è una componente di scenario molto particolare che riguarda specificamente Bari e la Puglia, e cioè diversamente dal resto del Mezzogiorno noi abbiamo ancora un pezzo importante di sistema bancario a radicamento locale. È la Pop Bari, no? Che è una differenza grossa rispetto al resto del Mezzogiorno. Questo ha favorito, secondo me, un sano principio di concorrenza che ha fatto sì che in realtà, sì, probabilmente con qualche differenziale, ma in buona sostanza sia i gruppi bancari principali nazionali, sia il sistema bancario locale, poi bene o male abbiano avuto un atteggiamento di sufficiente attenzione, questo perlomeno per quanto riguarda le condizioni. Per quanto riguarda l'accesso al credito, qui il discorso è un po' più complesso, certamente la piccola impresa ha sofferto più della media in maniera abbastanza sensibile e c'è anche una componente di raffreddamento della domanda di credito che va considerata e che è in realtà il punto nodale per capire come andrà il 2010. Poi spero che Nicastro abbia ragione sul fatto che i bilanci non buoni del 2009 non condizioneranno le decisioni delle banche. Io mi tengo, come dire, ai comportamenti storici, quindi qualche preoccupazione la mantengo. Grazie a ambedue, grazie al Presidente Industriale di Vicenza Roberto Zuccato e grazie al Presidente degli Industriali di Bari Alessandro La Terza. Arrivederci. E allora, vedremo, è importante monitorare il territorio, lo dico a chi dice, ma insomma in una giornata come questa si può dedicare meno spazio alla borsa? Non è vero, dedicheremo i prossimi minuti anche nella seconda ora del programma, prima di parlare dell'inchiesta sul riciclaggio e l'associazione delinquere che riguarda Fastweb e una società controllata da Telecom Italia. Devo dire che chi diceva, insomma, sempre a parlare di occupazione, di disoccupati, di aziende in crisi e di operaiume. Ma per favore, la borsa oggi è un tema come lo è sempre, ma il tema di questi mesi è l'occupazione, sono i dipendenti, operai, dirigenti, quadri. Questa è la tenuta del sistema di impresa, altro che la borsa. La borsa sennò diventa un gioco. Vabbè. Meno 2,21% oggi Milano, Parigi meno 1,30%, Francoforte meno 1,50%, Londra meno 0,70%. I titoli oggi, l'abbiamo detto fin dall'inizio del programma, male tutti i bancari perché Commerzbank ha diffuso dei dati assolutamente, insomma, non belli. Ci sono giornate in cui veramente non si sa da che parte girarsi. E vabbè, dei dati non belli. Commerzbank infatti ha avuto un calo nel dato trimestrale il 2009 si è chiuso con un rosso di 4 miliardi e 500 milioni di euro, soprattutto per le svalutazioni e gli accantonamenti messi a bilancio. Gli accantonamenti sono sui prestiti che risulteranno difficilmente esigibili, le svalutazioni sono per l'operazione che Commerzbank ha fatto con la finanza derivata e deviata e creativa. 1,9 miliardi, poi l'integrazione con Dresden Bank, insomma il rosso è pesante. Livia Zancaner, Radio Corriere, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. E questo per quello che riguarda i bancari. Sul fronte complessivo della borsa cosa ha pesato? La fiducia fiducia in calo, sfiducia dei consumatori americani? Sì, allora i listini del vecchio continente sono stati appunto penalizzati dal calo del comparto bancario, ma in particolare dalle cattive notizie arrivate sul fronte macro. Questa mattina infatti è stato pubblicato l'indice sulla fiducia delle imprese tedesche, che è sceso a sorpresa a febbraio oltre le attese, ma soprattutto a contribuire al ribasso dei listini è stata la pubblicazione dell'indice americano nel pomeriggio sulla fiducia dei consumatori, che è scivolata a quota 46 punti a febbraio dai 56,5 di gennaio. Inoltre bisogna considerare anche il pesante calo registrato oggi dal petrolio, che è sceso sotto i 79 dollari al barile. Allora Livia, almeno la tua compagnia la usiamo anche per allietare una giornata pesante, perché adesso diamo un paio di titoli e poi continueremo dopo nel giro delle 18. I bancari li archivierei con Commerzbank, nel senso che questo ha penalizzato tutto il settore in Europa. Unicredit la peggiore, meno 3,88, la peggiore in assoluto. Poi Banco Popolare meno 2,90, come la Popolare di Milano, Unipol meno 2,70, Intesa pure meno 2,70, Monte dei Paschi meno 2,3%, e ancora Generali meno 2,30, Ubibanca meno 2,1%, di bancari vedo poco altro. Parliamo di un titolo che invece bene è andato, e mi riferisco a A2A, più 1,7%. Allora, A2A ha beneficiato delle indiscrezioni relative a una possibile offerta da parte di EDF, che è socio indiretto di Edison, sulle quote detenute proprio da A2A in foro buona parte. Infatti, secondo le indiscrezioni circolate oggi, EDF dovrebbe mettere sul piatto di A2A e degli altri soci italiani un'offerta pari a 1,6 miliardi di euro, comprensiva sia di cassa sia di un impianto di Edison in Italia. Nel pomeriggio però, su richiesta della Consob, A2A ha comunicato che allo stato attuale non vi è nessuna operazione all'esame degli organi competenti della società. In ogni caso il mercato sembra crederci, perché anche Edison ha chiuso in rialzo sul listino. Allora Livia, resta con noi, non ci lasciare, il GR delle 18 e poi gli altri titoli, appunto al di là dei bancari, Telecom soprattutto, bene, male anche Steam Microelectronics e poi Tenaris, 349-238-6666 per i vostri sms, e poi tutta la vicenda corruzione, Marcegaglia, Montezemolo, quello che hanno detto oggi la Luis, e poi soprattutto l'inchiesta, il mandato di arresto per Scaglia e per, insomma, società Telecom controllate e Fastweb. 349-238-6666 GR. Diciotto e nove minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per questa seconda parte di Focus Economia, in cui chiuderemo l'appuntamento di borsa e poi parleremo della vicenda Fastweb, Scaglia, ma non solo. Allora, Livia Zancaner, abbiamo detto di bancari, oggi molto male per il bilancio di Commerzbank, del mercato comunque negativo, ricordo che si fosse appena messo in collegamento, -2,2% Milano, -1,30% Parigi, -1,50% Francoforte, -0,70% Londra, l'America -0,70% per via anche della fiducia dei consumatori americani. Temi diversi da questi due riguardano vari titoli. ST Microelectronics -3,68% e Fiat -3,5% sono rispettivamente il secondo e il terzo peggior titolo dell'S&P MIB. Sì, allora Fiat ha perso appunto il 3,46%, risentendo più che altro dell'andamento negativo del settore auto in Europa, che ha ceduto l'1,67% circa. Bisogna ricordare inoltre che è iniziata la cassa integrazione per i dipendenti, che durerà 2 settimane. Per quanto riguarda ST Microelectronics, bisogna sottolineare che allora, il titolo è stato colpito oggi dai realizzi dopo che le azioni avevano guadagnato quasi il 10% in 5 sedute, cioè dalla chiusura del 15 febbraio a ieri. La scorsa settimana gli acquisti erano stati infatti innescati dal buon andamento del settore tecnologico europeo, sulla scia della buona intonazione di Infineon e di Nokia, che erano state premiate dagli analisti dopo la pubblicazione dei conti. E questo per quello che riguarda i due titoli, ST Microelectronics e Fiat. Ancora Tenaris, il quarto peggior titolo, -3,3%. Sì, allora Tenaris oggi è stato penalizzato in particolare dall'andamento negativo del petrolio, che è scivolato sotto quota $79 a barile e al momento tratta intorno a $78,93. Bisogna ricordare però che ieri Tenaris aveva aggiornato i massimi e che domani pubblicherà i conti 2009. Per quanto riguarda appunto il bilancio 2009, il Credit Suisse si aspetta ricavi a 5,6 miliardi di euro circa dagli 8,2 del 2008 e un EBITDA a 1,6 miliardi rispetto ai 2,7 miliardi realizzati nell'esercizio precedente. Migliori e peggiori in assoluto, Eurofly +5,90%, Autostrade Meridionali +5%, Yorkville BHN +18,3%, SNIA, Livia, immagino che sia la richiesta di insolvenza per la capogruppo che fa crollare il titolo del 7,60%. Sì, assolutamente, gli operatori hanno sottolineato che è stata questa notizia a far scivolare il titolo. E di Telecom ci chiedete, beh, insomma abbiamo anche detto, ma comunque l'allontanamento dell'ipotesi di fusione con Telefonica, comunque il raffreddamento penalizza il titolo -2,90%, di A2A, che è l'unico titolo positivo, abbiamo già detto, +1,75%, e nel salutare Livia Zancaner di Radio Colle Sole 24 Ore cito anche Fastweb, perché di questo ci occupiamo adesso, -7,6%, e allora apriamo una pagina che, come purtroppo altre volte è successo, è a cavallo tra cronaca giudiziaria e cronaca finanziaria. Allora, gli indagati, le richieste d'arresto, perché sta succedendo veramente di tutto. Richiesta d'arresto ed è ricercato Stefano Scaglia, ex ministro delegato di Fastweb, 56 misure di custodia cautelare emesse oggi, di cui 4 arresti domiciliari e 5 custodie cautelari in carcere. riguardano oltre a Scaglia anche altri alti funzionari ed amministratori della società Sparkle, che è controllata al 100% da Telecom e Fastweb. Scaglia si trova all'estero, ho dato mandato ai legali di concordare il suo interrogatorio nei tempi più brevi, indagato anche l'attuale amministratore delegato di Fastweb Stefano Parisi, il direttore finanza Calcagno, il membro del CDA Rossetti. Ancora poco fa una nota di Fastweb ha chiarito che la vicenda giudiziaria riguarda fatti accaduti anni fa, cioè 2005-2006, noi ci riteniamo parte lesa. Ordinanza di arresto anche per il senatore del Popolo della Libertà di Girolamo, Nicola Di Girolamo, e poi sono arrivati anche altri nomi negli avvisi che sono stati mandati. Tra l'altro sono indagate anche le società Telecom Italia, o meglio Sparkle, Fastweb e Telecom Italia in quanto controllante appunto di Sparkle, per cui le due aziende sono coinvolte per un periodo fino al 2007. Che cosa è successo? Allora andiamo con ordine, perché questa mattina avevamo già avuto alcune dichiarazioni sulla responsabilità e la necessità di legalità da parte sia del presidente della Fiat Montezemolo che del presidente di Confindustria Marcegaglia. Le ascolteremo dopo, perché bisogna spiegare con attenzione questa e con dettaglio questa vicenda. Moria Longo, ospite, collega del Sole 24 Ore, ospite dei nostri studi, buonasera. Buonasera a tutti. Dunque, l'accusa è associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio e al reimpiego di capitali illecitamente acquisiti attraverso un sistema di frodi fiscali. Se ho ben capito, una gigantesca rete di riciclaggio, secondo le ipotesi della DDA di Roma, quindi antimafia, sarebbe di aver riciclato denaro sporco con ramificazioni internazionali per un ammontare complessivo di 2 miliardi e 400 milioni di euro di IVA evasa. Moria. Sì, 2 miliardi sono le fatturazioni false. Sostanzialmente quello che è successo è quello che viene chiamato frode carosello. Sostanzialmente venivano create una serie di società da questa organizzazione presunta dagli inquirenti, di società estere o italiane, che facevano con Fastweb o con Telecom Italia Sparkle, facevano delle false fatturazioni, vendevano cose che in realtà non esistevano, per esempio schede prepagate o servizi per adulti. E cosa succedeva? Che nel momento in cui viene fatta una fatturazione, sia vero sia falsa, si crea un credito d'imposta di IVA o un debito di IVA. Le società di comodo, diciamo quelle estere, avevano un debito. Fastweb e Telecom Italia avevano un credito. Il problema è che le società estere dopo poco sparivano, cambiavano sede, venivano chiuse, andavano all'estero, cambiavano paese e così via. Per cui chi doveva pagare il debito IVA non lo pagava, mentre invece chi beneficiava del credito ne beneficiava. E quindi in questo caso, in questo senso, si è creata appunto questa frode con un danno allo Stato stimato sempre dagli inquirenti in 365 milioni di euro, facendo triangolazioni di fatture per un totale, come dicevi tu, di 2 miliardi di euro di fatture false. Allora, vediamo di capirci, perché dopo le informazioni per chi è in viaggio, questo meccanismo assomiglia, anzi, lo è, ha una appunto fatturazioni false, evasione di IVA e triangolazione. Qui però c'è un'ipotesi, interviene la DDA, la Direzione Distrettuale Antimafia, di riciclaggio, e questa è la cosa che lascia più sorpresi. Voglio dire, per carità, in questo paese ci siamo abituati a tutto purtroppo, ma se si trattasse di una triangolazione per evitare, eludere l'IVA e incassarla in altro modo e quindi danno allo Stato, staremo parlando di un'altra cosa. Qui la cosa che mi lascia molto perplesso è addirittura che si cita l'andrangheta, si cita il riciclaggio. Dopo le informazioni per chi è in viaggio, sentiremo anche la struttura dell'indagine e gli illeciti emersi, come li ha raccontati il procuratore della divisione di struttura antimafia di Roma, Giancarlo Capaldo. 349-238-6666, dicevo, per gli sms. minuti, allora indagato anche Riccardo Ruggero, Telecom Italia, e poi sto andando dunque per Telecom Italia Sparkle. Si tratta di Riccardo Ruggero, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Stefano Mazzitelli, amministratore delegato, Carlo Baldizzone, responsabile dell'area amministrazione e controllo, Massimo Comito, Responsabile dell'area Europe,

l'IVA di ogni operazione veniva poi collocata all'estero e spariva appunto all'estero, ed è stato il frutto di questa operazione criminale, ecco, illecita. Beh, incredibile, perché vengono a intersecarsi Moria Longo, come tu ricordavi, una tecnica che citava anche il procuratore Capaldo, il carosello, adesso la rispieghiamo, con però, insomma, da quello che ho capito io, ti chiedo chiarimenti, però i soldi così ottenuti da false fatturazioni, falsa IVA, venivano poi portati all'estero e lì si inseriva, da quello che abbiamo capito, anche la criminalità organizzata, nel caso specifico l'Ndrangheta, perché insomma questo è l'aspetto, a mio avviso, giornalisticamente ancora più interessante, per così dire. Ho capito bene, cioè, tra l'altro vedo adesso un flash d'agenzia, il GIP ha detto siamo di fronte a una delle più colossali frodi poste in essere nella storia nazionale, questo per quello che riguarda l'inchiesta broker, l'eccezionale entità del danno recato allo Stato, la sistematicità delle condotte, la loro protrazione negli anni, la qualità di primario operatore di borsa e mercato. Appunto, Fastweb e Telecom Italia Sparkle. Moria. Sì, diciamo che da quello che si capisce la frode era costituita in due parti. La prima era quella che costituiva, diciamo, i proventi, e l'altra era la parte con cui questi proventi venivano poi utilizzati. Allora, la prima parte, la triangolazione, ecco, perché ce lo chiedono gli ascoltatori al 349-238-6666, sto carosello che è? Ecco, sì, carosello, come suggerisce anche il nome, è una serie di passaggi di fatturazioni false. Quindi per vendere e comprare cose che in realtà non venivano né comprate né vendute, tra società estere o italiane che poi sparivano, cambiavano sede, con Telecom Italia Sparkle e con Fastweb. Questo giro di fatturazioni che giravano veramente per il mondo, si va dall'Olanda alla Gran Bretagna, Panama, veramente il giro del mondo facevano, avevano l'obiettivo di creare in sede alle società di comodo, diciamo queste piccole società, un debito fiscale, un debito IVA, e in seno invece al Fastweb e alla Telecom Italia un credito. Ovviamente le società che avrebbero dovuto pagare il debito allo Stato poi sparivano, cambiavano sede, quindi il debito non lo pagavano mai, mentre invece il credito rimaneva. Quindi e questo è il carosello, e qui si è arrivati a 2 miliardi e 4, ho capito bene? No, 2 miliardi e 4 di fatturazione, mentre il danno allo Stato 365 milioni, che non sono briciole, diciamo. Però, quindi non venivano in realtà messi all'estero 2 miliardi e 4? No, quello, 2 miliardi e 4 era il giro di fatture che serviva per creare questi 380 milioni. Sì. A questo punto, e qui arriviamo alla parte, diciamo, purtroppo, dove si inserisce la criminalità organizzata, secondo le accuse della divisione distrettuale antimafia di Roma. Sì, a questo punto, secondo quello che risulta dalle indagini, secondo quello che hanno anche scritto gli inquirenti, l'IVA evasa va all'estero, viene trasferita all'estero, e a questo punto veniva usata in mille modi. Da quello che ho capito, la vicenda dell'Ndrangheta e del senatore è una piccola parte, cioè veniva usata in mille, in piccola, adesso non so l'entità, perché quello, però comunque è una parte, perché da quello che ho capito veniva usata in mille modi e per attività che, diciamo, più o meno lecite, o comunque nel quale poi in molti dei casi entrava anche la criminalità organizzata, quindi un sistema superiore, diciamo che. Allora facciamo così, adesso dobbiamo chiudere il programma. Le dichiarazioni di oggi del presidente di Confindustria Marcegaglia sulla corruzione che danneggia anche la crescita economica, e le dichiarazioni del presidente della Fiat Montezemolo, che ha detto serve una lotta titanica ma occorrono riforme, gli ha risposto poi il ministro Brunetta, ha detto Montezemolo non è informato sulla mia riforma. Domani torneremo sul tema, ahimè avremmo voluto parlare, come abbiamo fatto all'inizio del programma, dei problemi reali delle nostre imprese, degli occupati, di quant'altro, ma qui insomma non si riesce a uscire anche da attività a questo punto illecite. Poi vedremo che cosa stabilirà, e domani avremo sicuramente evoluzioni. Grazie per ora a Moria Longo, da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Ad maiora. Radio 24. La passione si sente.